Allora, con un po' di ritardo però cominciamo. Oggi abbiamo un grande autore come oggetto di questa discussione, grande libro di La grande trasformazione di Polanyi e due persone molto esperte a discutere del tema. Soltanto due rapidissime parole. Noi oggi sentiamo molto spesso, anche nelle posizioni meno estremiste, meno diciamo neoliberali, meno estremiste su quel lato, ricordare la citare la naturalità dei mercati. Cioè anche uno che non è neoliberista di fatto ci dice sempre: eh sì, però la globalizzazione, la tecnologia ci portano verso questa crescente disuguaglianza. Quello che conta, ad esempio, è avere più istruzione, perché ci dobbiamo adeguare a questo mondo che inevitabilmente cambia così. E quindi il mondo cambia, i mercati cambiano, diventano globali. E con un'innovazione tecnologica che premia le competenze, e dunque l'unico modo per cercare di fare fronte a queste disuguaglianze è quello di istruirsi sempre di più. Quindi lo vediamo anche in queste posizioni, che sembrano posizioni, come dire, più condivise, non necessariamente neoliberali, anche a sinistra sentiamo dire questa affermazione. E in realtà invece un'affermazione come questa dimentica due importanti elementi. Primo elemento è che nessun mercato è un mercato naturale. La globalizzazione è stata costruita partecipando a dei tavoli, facendo delle politiche, non è venuta così, una mattina come una nuvola può arrivare dal cielo, è stata costruita con le politiche, si è deciso di liberalizzare il mercato dei capitali in un certo modo piuttosto che in un altro, si è deciso di permettere in maniera totalmente legale alle multinazionali di non pagare le imposte nei paesi in cui producono ricchezza. Paradisi fiscali sono anche in Europa, come ben sappiamo, l'Olanda è un caso paradigmatico. Si è deciso di muoversi, le decisioni tecnologiche dipendono anche molto dagli investimenti che fa o che non fa il settore pubblico. E Karl Polanyi, di cui noi oggi discutiamo, ci mette proprio in guardia da questo guardare ai mercati come luoghi naturali. Mercati sono sempre delle creazioni di politiche, ma sono, diciamo, di politiche, sono, come dire, poggiano, come la sua parola classica, sono embedded, quindi poggiano, sono collocati in un contesto di diritti di proprietà e di regolazioni che sono definiti dagli uomini e dalle donne dei diversi periodi. E anche i confini dei mercati sono dei confini che sono definiti dalla nostra azione. Un altro esempio. Noi oggi, in questi ultimi anni, abbiamo assistito in modo progressivo a un'invasione del mercato anche nell'ambiente. Già Polanyi ci ricordava che invece questa mercificazione dell'ambiente era di nuovo un atto umano, era qualche cosa che veniva creato a cui ci si poteva ribellare. Non è detto che l'ambiente debba essere mercificato. E ricordo che questa mercificazione la si ha non soltanto quando si scarica a costo zero sull'ambiente, inquinamento e così via, ma la si ha anche in molte delle misure che noi prendiamo come misure invece di tutela ambientale. La risposta classica degli economisti di fronte a un problema di inquinamento, di effetto esterno negativo, qual è? È quella di mettere dei prezzi e quindi almeno di fare pagare chi inquina. Lo slogan è chi inquina paga. E quantomeno paghi e non usi gratis un fattore naturale. Però è sempre un pagamento, è sempre una incursione del principio dei prezzi e quindi mercificazione all'interno dell'ambiente. Invece noi magari vorremmo che alcune risorse ambientali siano tutelate come beni comuni. Allora, di fronte a questa, come dire, sottovalutazione della costruzione dei mercati e del fatto che i mercati poggiano su diritti di proprietà e quindi su poteri e regole. E dall'altro lato, sottovalutazione che i mercati devono avere dei confini, che spesso invece non hanno, perché vediamo invece un ingresso sempre più prepotente dei mercati, mi sembra che sia assolutamente importante e attuale ritornare oggi al pensiero di Polanyi, che di questo già parecchi decenni fa ha parlato. E farlo con due persone che sono così esperte di Polanyi. Da un lato Mariuccio Salvati e dall'altro Giorgio Resta. Sì, è inutile che scuotete la testa perché è così e quindi su questo non c'è dubbio. E allora darei subito a loro la parola e direi che iniziamo con Giorgio Resta e poi dopo la parola a Mariuccio. Così è stato deciso, da noi due, da lei e io. Allora, prova, ecco, prova. Okay. Grazie. Allora, grazie davvero per l'invito. C'è bisogno che dica quanto sia piacevole, ma più che altro un onore far parte non solo di questo tavolo con Mariuccia e Elena, ma in genere della scuola di buona politica che ha visto avvicendarsi tra i più importanti studiosi intellettuali italiani. Quindi, da un lato, un grande ringraziamento a Laura Pennacchi e alla Fondazione per l'invito, ma dall'altro non posso che manifestare un senso di disagio sia per questa compagnia così autorevole, sia perché in realtà il mio incontro con Polani è stato un incontro occasionale legato a vicende di studio, ma che muovevano da territori, da premesse diverse, perché io sono un giurista, studioso del diritto comparato, e mi sono trovato casualmente a imbattermi nella lettura e nell'approfondimento di Polani perché insieme a Maria Vittoria, a mia moglie, abbiamo un po' di anni fa avuto accesso all'archivio degli inediti di Polani mentre mi trovavo a Montreal, e quindi un'esperienza, diciamo, da non perdere. E ricordo ancora quando ci chiedevamo, almeno io in particolare, se entrare nel territorio che è proprio dello storico dell'economia, dell'antropologo sociale, dell'economista, sia proprio per un giurista, e quindi uno scrupolo di ordine disciplinare che ancora mi porto dentro. Quindi confesso questa mia, come dire, approccio di tipo dilettantistico a Polani, che è colmato forse soltanto dalla grande passione, dalla grande ammirazione intellettuale che si può avere per un autore che è sicuramente inattuale nel senso buono, nel senso che le sue idee sono idee che cozzano con il tempo nel quale viviamo, e proprio per questo ci interrogano. E quindi non è un falso attualismo di dire che Polani parla al giorno d'oggi, ma in realtà è proprio vero, nel senso, proprio perché Polani è uomo di un altro secolo, è uomo che ci spinge a guardare le cose da un'ottica diversa. Quindi permettetemi innanzitutto di scusarmi se appunto non è vero, come diceva Elena, che sono un esperto di Polani. Abbiamo semplicemente studiato per curare la pubblicazione degli inediti, e da allora Polani è diventata un po' anche una griglia analitica che uno si porta dentro per studiare anche i problemi del diritto. Quindi, con questa confessata come dire, approccio di carattere non specialistico ma interessato alla lettura di Polani anche per le operazioni giuridiche, che volevo, diciamo, condividere con voi alcune espressioni, alcune considerazioni e più che altro alcuni interrogativi. Quindi non ho né porto qui una relazione strutturata quanto un insieme di riflessioni che spero non siano troppo frammentarie e disorganizzate. Innanzitutto credo che sia significativo che in questo tavolo siedano una grande studiosa dell'economia, diciamo, che ho l'onore di avere come collega a Roma 3 nella stanza a fianco, una storica e un giurista, perché in realtà Polani è un autore che ha fatto dell'approccio interdisciplinare la sua cifra intellettuale. In secondo luogo, come adesso appunto spiegherò un pochino meglio per ricordare alcuni momenti della sua vicenda biografica, in secondo luogo Polani non fu un mero accademico, non fu mai investito di un incarico universitario con tenure, anche quando insegnò in Colombia, negli Stati Uniti, non ebbe mai una tenure in senso stretto, quindi non possiamo considerarlo un accademico a tutto tondo, e forse questa è stata la sua fortuna per la capacità di vedere le cose in una maniera più libera di quello che gli accademici legati alle proprie griglie disciplinari sono abituati a fare. E il grande coraggio e la grande forza della sua ricostruzione, che è una ricostruzione di tipo olistico sulle trasformazioni del mondo nel quale viveva, e come poche poi ne sono state fatte dopo di lui, e probabilmente da un lato appunto il suo non essere legato a discipline specifiche, perché Polani sì, forse è bene ricordarlo, non era tecnicamente un economista, perché si laureò nel 1909 in diritto, studiando diritto tra Budapest e Kolozsvár, e poi dopo perfezionando gli studi a Vienna, anzi fu anche ammesso all'ordine degli avvocati a Vienna, anche se non esercitò mai la professione, perché aveva uno zio che aveva uno studio. Quindi ebbe una formazione giuridica, però al contempo sin da subito si interessò di economia, in primo luogo come giornalista, perché lavorava come redattore del Österreichisches Volkswirt, una sorta di economist di quell'epoca, che gli permise appunto di capire le vicende soprattutto dell'economia internazionale, perché poi fu anche redattore per l'estero dall'Inghilterra, con una visione appunto imperniata alla concretezza dei fenomeni più che all'astrattezza delle teorie. E quindi questa sua diciamo approccio interdisciplinare, che assommava cognizioni giuridiche, quindi istituzionalismo, economia e storia, tirò poi nella fase inglese della sua vita, la storia fu l'altra grande passione di Polanyi, cui poi si aggiunsero negli Stati Uniti gli studi di carattere antropologico che lo portarono al libro famoso su traffici e mercati negli antichi imperi. Tutto questo gli permise di vedere le cose da una distanza rispetto a quello che i singoli angoli prospettici gli avrebbero consentito, e in secondo luogo non era un accademico non solo perché era slegato dalle appartenenze disciplinari, ma anche perché univa alla sua azione, alla sua ricostruzione intellettuale, una profonda fede politica che lo aveva sempre portato anche all'azione politica in senso stretto. Sua e, non dimentichiamolo, di sua moglie Ilona, che appunto partecipò a vari movimenti di orientamento comunista nell'Austria del primo dopoguerra, tanto che la sua appartenenza appunto ai movimenti di ispirazione comunista fu la ragione per cui Polanyi, quando emigrò dall'Inghilterra nel Nord America, non si stabilì negli Stati Uniti, dove pure insegnava, a New York, bensì in Canada, proprio perché appunto non aveva avuto il visto d'ingresso per sua moglie, e quindi continuò a fare l'emigrante anche all'interno del territorio nordamericano. Ora, credo che sia utile ricordare, in primo luogo a me stesso, alcuni, diciamo, le tre fasi importanti della storia biografica di Polanyi, perché la sua produzione intellettuale si intreccia strettamente a questi tre momenti. Polanyi condivide con altri grandi sociologi, altri grandi filosofi dell'epoca, il fatto di essere l'uomo di un mondo che si disgregava, no? L'uomo del mondo di ieri, per richiamare Zweig. In realtà Polanyi di questo mondo in disgregazione lo avverte sia nella sua giovinezza ungherese di Budapest, dove entra in contatto con il circolo Galilei, quindi con figure come Lukács, come Mannheim, e che rappresenteranno anche parte della sua formazione culturale, e poi soprattutto con il trasferimento che avviene subito dopo la Prima Guerra Mondiale, dove Polanyi partecipò come ufficiale dell'esercito austro-ungarico nella città di Vienna. E a Vienna Polanyi studiò economia, anche se appunto in maniera, diciamo così, non prettamente accademica, e entrò in contatto con il grande circolo degli economisti viennesi dell'epoca, con cui ebbe peraltro un rapporto, soprattutto i marginalisti ebbero un rapporto di carattere essenzialmente conflittuale. Nel suo salotto si incontravano persone che poi avranno segnato la storia della filosofia politica e dell'economia, per esempio Popper, che lui richiama un inedito di Popper nella sua opera. Abbiamo ricostruito insieme alla figlia di Polanyi la genesi di questo dialogo Polanyi-Popper, ma certamente questa fase viennese gli fece toccare con mano, insieme alla sua esperienza nella Prima Guerra Mondiale, le immense sofferenze che i popoli europei stavano vivendo in quella fase storica. Lui, peraltro, dopo il fallimento della rivoluzione sovietica ungherese, il passaggio a Vienna, sperimentò direttamente anche la difficoltà, pur nella Vienna rossa, dell'organizzazione di un'alternativa e di come questo tentativo di autoprotezione dei popoli che in quel momento viveva determinasse quelle fratture profonde che poi portarono alla genesi, all'avvento delle dittature novecentesche. E quindi fu proprio un elemento tangibile della sua biografia l'idea della disgregazione e della crisi. Lo visse con mano, e ancora la figlia Cari Polanyi cui appunto va sempre il mio pensiero con grande affetto, e che continua instancabile all'opera di diffusione del pensiero del padre con la creazione quest'anno della International Carpolani Society a Vienna, e ricorda proprio come una delle esperienze più importanti per gli stessi autori come Mises e Hayek fu proprio di vedere sotto i propri balconi le grandi manifestazioni popolari che suscitarono una profonda paura da parte delle élite, e quindi il ritorno degli economisti, e quello sono gli anni del famoso dibattito sulla contabilità socialista, aveva insieme un problema teorico ma anche un problema di percezione del rischio per le classi avvantaggiate di quello che significava la democratizzazione. E con questa esperienza, che appunto si lega da un lato alla sua formazione politico-filosofica, dall'altro all'approfondimento dei temi dell'economia che avviene proprio a Vienna nell'ambito della sua attività giornalistica per l'Österreichisches Volkswirt, Polanyi compie negli anni 30, per effetto anche ovviamente dell'avvento dell'Anschluss e del regime, della virata diciamo di destra dell'Austria, ricordiamo peraltro che la famiglia di Polanyi è una famiglia ebrea, il padre era un ingegnere che aveva messo su un'impresa di trasporti ferroviari, Polaksec, mi sembra che fosse il nome originario, poi modificato in Polanyi, decise di espatriare, di andare in Inghilterra, dove si avvicinò molto all'epoca al gruppo dei socialisti cristiani, e insegnò per la Workers Educational Association nelle scuole serali che erano tenute in correlazione con l'Università di Oxford e Cambridge, e insegnò i temi della storia economica. Quindi da un lato visse direttamente in prima persona le esperienze dell'Inghilterra dell'epoca, e dall'altro appunto unì alla percezione delle trasformazioni dell'economia globale nei suoi articoli appunto sulla rivista austriaca, di cui continuò a collaborare come redattore da Londra. Troviamo analisi delle questioni più diverse, dal problema della guerra in Cina al piano quinquennale sovietico, all'avvento del New Deal, quindi all'analisi della società americana. Polanyi aveva appunto uno sguardo a 360 gradi sul mondo, e nell'epoca inglese approfondì molto lo studio della storia agraria inglese. Si avvicinò, come dicevo, all'epoca al movimento dei socialisti cristiani, stesse rapporti con essi, e iniziò a scrivere i primi appunti importanti per la grande trasformazione. E questa seconda fase del periodo inglese di Polanyi si lega evidentemente al nucleo concettuale più importante della grande trasformazione, che viene pubblicata nel 1944, libro di cui gli ultimi due capitoli peraltro sono sempre stati ritenuti insoddisfacenti dallo stesso autore, perché furono scritti in fretta e in furia, perché al momento della fine della guerra Polanyi, che si trovava in quel momento negli Stati Uniti, non vedeva l'ora di tornare in Inghilterra per contribuire alla ricostruzione delle società europee. Furono limati dai suoi allievi, infatti l'ultimo capitolo, La libertà in una società complessa, è un capitolo difficile da comprendere, perché è monco in realtà nella sua costruzione. E però tutto questo primo periodo tra Vienna e l'esperienza inglese è in realtà, come dicevo, rappresenta il tessuto connettivo della grande trasformazione, che di questo sono sicuro parlerà con maggiore precisione e competenza Mariuccia. Ricordiamoci il sottotitolo della grande trasformazione, che è Le origini economiche e politiche della nostra epoca. E benché Polanyi all'inizio della grande trasformazione dica in maniera molto netta che questo non è un libro di storia, perché non è una ricostruzione ordinata e logica di un processo di trasformazione, anzi l'andamento nei capitoli è rabdomantico, si va da un'epoca storica poi si torna a quella precedente e poi si ritorna a quella successiva, non c'è un ordine strettamente storico e cronologico degli eventi, ma Polanyi dice esattamente la mia indagine sul passato è volta ad illuminare aspetti del presente, quindi in qualche modo siamo forse lontani dai canoni in senso stretto storicistici, però ciò nonostante è un libro profondamente intriso di storia, anzi forse se c'è una frase che spiega il senso dell'opera di Polanyi è quella famosissima e sempre citata: per comprendere la Germania nazionalsocialista dobbiamo ritornare all'Inghilterra ricardiana. E quindi tutto il lavoro che Polanyi fa nella Grande Trasformazione è di capire che cosa ha portato alle tragedie degli anni 30. Anni 20 conservatori, un capitolo anche sentito così, anni 30 rivoluzionari. E la Grande Trasformazione, ricordiamolo a molti giornalisti o commentatori improvvisati che spesso intendono per grande trasformazione in realtà l'epoca del XIX secolo, per Polanyi la grande trasformazione era la crisi del XIX secolo che avviene dal 14 in poi, dalla crisi diciamo della base aurea e poi davvero con gli anni 30 con l'avvento delle rivoluzioni nazionalsocialiste, le esperienze dittatoriali e tutto quello che fu collegato anche negli Stati Uniti al New Deal di Roosevelt, che era la deflagrazione di un fenomeno che però nasceva, questo sì, ai primi dell'Ottocento. E quindi il suo libro è volto alla comprensione della radice istituzionale, politica ed economica di questa grande deflagrazione, a cui poi sul dopo Polanyi rimane appunto negli ultimi due capitoli molto circospetto su quello che sarebbe stato l'esito di questa grande trasformazione, ma in realtà è volto tutto il libro a capire, da un lato, come dicevo, quali sono le ragioni profonde che hanno portato al crollo di una civilizzazione che era nata con i primi dell'Ottocento, e dall'altro a dimostrare che tutto l'assetto, che era l'assetto cosiddetto della società di mercato che spiega questa vicenda, si avvaleva di una costruzione ideologica e mistificatrice che era quella incentrata sulle opere dell'economia politica del 7 e soprattutto dell'Ottocento, imperniate sull'idea da un lato della naturalità dell'instaurazione dei rapporti di mercato e dall'altro del modello dell'homo economicus, il modello per cui è razionale da un punto di vista economico soltanto la ricerca del profitto di carattere egoistico. E questo è un punto che Polanyi tratta in un paio di capitoli ancora limitati nella Grande Trasformazione, che sono volti a dimostrare come quello che noi riteniamo naturale, che cioè i mercati esistano da sempre, da quando esiste la vita umana, perché esistono prove di scambi e baratti e perché esisteva la moneta, in realtà il grande stimolo che dà Polanyi in questi capitoli è la dimostrazione che in realtà l'esperienza del mercato autoregolamentato è un no all'interno della storia dell'umanità, è strettamente limitato appunto alla fase successiva al mercantilismo, quindi al post della rivoluzione industriale, e che in realtà l'analisi della storia umana e in particolare delle economie primitive che si erano intenzionalmente eliminate dall'analisi fino a quel momento dimostra che la società incentrata sullo scambio è soltanto una delle possibili fonti di integrazione dei consessi civili e sociali, assieme appunto alla redistribuzione e alla reciprocità. Ma questi sono nella Grande Trasformazione due capitoli che in qualche modo lanciano il sasso, che sono più o meno marginali nell'economia della trattazione e che invece saranno l'oggetto di tutti i successivi lavori e gli approfondimenti che Polanyi compirà a partire dal 1947, quando si stabilisce appunto accademicamente negli Stati Uniti e fonda un gruppo di lavoro incentrato sugli studi di storia economica collegati all'antropologia sociale, volti appunto ad approfondire l'economia delle società antiche. E quello sarà tutta la terza fase dell'opera di Polanyi, la fase americana, nella quale da un lato ci sono opere di critica estremamente importanti all'idea, all'epistemologia diciamo, del razionalismo egoistico, e ne cito solo una perché a mio avviso basterebbe leggere queste 10 pagine per capire meglio i problemi del presente, qui ci vuole, che si chiamano Our Obsolete Market Mentality, un saggio di Polanyi del 1947, Civilization Must Find a New Thought Pattern, pubblicato in Commentary nel 1947. 10 pagine di una chiarezza estrema su quali fossero le basi ideologiche dell'intero modello del capitalismo. E quindi questa terza fase della sua vita è volta a dare quegli strumenti di carattere antropologico, sociologico e con le risultanze dell'archeologia, che in quel momento appunto davano nuove letture sulle società antiche, di dimostrare, quindi dare sostanza al suo argomento, che in realtà l'esperienza della società di mercato è un'esperienza confinata a un breve momento della storia umana e che non è dettata da determinismo, cioè non è dettata da necessità interna. In questo devo dire la tenere insieme tutti i fili del discorso di Polanyi non è semplice, ma se noi riandiamo a leggere i saggi degli anni 20, i saggi scritti in tedesco, alcuni di questi che erano inediti li abbiamo pubblicati nel libro del saggiatore per un nuovo occidente, troviamo alcuni fini conduttori dell'epoca di Polanyi che è importante non dimenticare. Innanzitutto l'insistenza sul problema della libertà, che mi ha riportato qualche appunto, tempo fa, quando abbiamo fatto il convegno su Basso, alla rilettura dei saggi bassiani di quell'epoca. In questo ci sono delle convergenze del tutto inconsapevoli e, come dire, che viaggiano su binari paralleli, ma lo sviluppo di una teoria socialista fortemente incentrata sull'elemento della libertà. Polanyi non è stato un autore contrario al mercato, anzi, se noi leggiamo gli saggi degli anni 20, proprio quelli sulla calcolabilità socialista e il saggio che abbiamo pubblicato del 17, mi sembra, quel che conta oggi, si vede chiaramente che Polanyi è convinto dell'utilità del sistema dei prezzi, dicendo che senza un sistema dei prezzi non è possibile avere un sistema economico funzionante, perché i prezzi permettono la leggibilità dei bisogni, che era l'idea di Mises che lui riprende, richiamando però l'attenzione sul fatto che ciò che il mercato oscura, ciò che il meccanismo del mercato anarchico lo chiamava all'epoca oscura, è l'incapacità di conoscere gli effetti retroattivi del funzionamento del sistema di mercato. Cioè, da un lato i prezzi in sé esprimono i bisogni e quindi permettono la leggibilità della società, però il problema è che all'interno dei prezzi non vengono inseriti quelli che noi oggi chiameremmo gli elementi di esternalità negative del funzionamento del sistema di mercato. Ed è per questo che è necessaria, secondo Polanyi, una supervisione esterna dei mercati, una regolamentazione dei mercati. Tanto che il modello a cui pensava all'origine era quello delle cooperative, cooperative di produttori e cooperative di consumatori, che negoziano tra di loro in un sistema di mercato incentrato sui prezzi, ma senza che vi sia quello che poi diventa nella sua analisi la base della società di mercato, cioè la commodification di terra, lavoro e moneta, che sono le tre fondamentali merci fittizie intorno a cui il pensiero e la prassi istituzionale dell'Ottocento in Inghilterra costruisce e impone artificialmente il meccanismo del mercato autoregolamentato. Quindi dicevo, questa pulsione verso la libertà umana, che non viene ritenuta intrinsecamente incompatibile con il mercato da Polanyi, in nessuna parte della sua opera, ma diviene tale solo quando il mercato diventa il mercato autoregolamentato che assorbe dentro di sé le relazioni sociali, quindi capovolgendo quella relazione strutturale che da sempre si è avuta nella storia umana del mercato integrato all'interno delle altre relazioni sociali, il classico esempio dei mercati comunali, che noi troviamo nelle piazze di tutti i borghi italiani, in cui il mercato, la piazza del mercato, ha sempre da un lato il municipio e la chiesa vicino come istituzioni che controllano il mercato. Di questo la grande trasformazione sì, è piena di suggerimenti di questo tipo. E quindi il dato importante di Polanyi è che la sua ricostruzione non è mai una ricostruzione ideologica e non è mai una ricostruzione deterministica, e richiama l'attenzione sull'importanza delle istituzioni come base non soltanto del funzionamento del mercato e di tutto ciò che gira intorno al mercato, ma anche dei modelli di comportamento degli uomini, perché questo sarà poi, che è la parte che a me più interessa per il giorno d'oggi, perché si lega alle risultanze dell'economia sperimentale, sarà l'oggetto dei suoi studi dagli anni 45 in poi, cioè dimostrare che la razionalità umana non è necessariamente una razionalità orientata al profitto. Dipende da qual è l'assetto istituzionale nel quale il comportamento umano viene collocato. E su questo magari poi ci torniamo più avanti, ma dicevo, primo punto in quegli scritti degli anni 20 che poi verranno sviluppati, l'insistenza sul tema della libertà, e d'altro canto solleva sin da quel momento il problema del rapporto tra, lui la chiamava, la libertà umana e la realtà della società. La realtà della società era il tema di una tensione profonda con la libertà umana, perché implicava l'attenzione sin da quel momento sulla dinamica del potere e del valore, che Polanyi inserisce profondamente nella sua visione dell'economia, e che invece, appunto, l'economia neoliberale, ad esempio, elimina completamente dal raggio dell'attenzione. Il tema del potere, che è il potere di controllo sui mercati, ovviamente Polanyi richiama da subito il punto per cui i mercati che non hanno strumenti di controllo istituzionale sono portati all'autodistruzione, non soltanto perché le tre fictitious commodity, terra, lavoro e moneta, di per sé lasciate in un mercato regolamentato portano alla distruzione della sostanza umana, ma anche perché il gioco concorrenziale, se non è frenato da meccanismi istituzionali, porta di per sé stesso al monopolio e all'autodistruzione. E quindi questo tema, che era all'epoca un tema per lui intriso di elementi filosofici, quella sua produzione era ancora fortemente filosofica, non lo soddisfa, tanto che dice in una delle lettere che invia alla moglie in quell'epoca: «Ich bin zu polyphon, deswegen habe ich nichts erreicht», sono troppo polifonico nella mia impostazione, per questo fino a questo momento non ho raggiunto nulla sul piano intellettuale ed accademico. Ed era vero, perché i suoi scritti sono ancora estremamente ermetici, non riesce a trovare una linea di lettura. La trova, a mio avviso, quando lega la sua analisi all'empirismo che gli deriva dalla comprensione storica dell'esperienza inglese. È in quel momento che la sua analisi trova un filo conduttore, perché si fa più concreta, appunto introietta l'elemento storicistico e comprende quali sono le ragioni che poi portano a quei conflitti in cui ci si muove in quegli anni. Allora, ovviamente su questo alcuni elementi così sparsi della grande trasformazione, ricordiamo all'inizio lui dice: tutto il sistema della civilizzazione moderna e dei 100 anni di pace che abbiamo vissuto tra l'Ottocento e il Novecento si basano essenzialmente su 4 istituzioni: la base aurea, la società liberale, il mercato autoregolamentato e l'equilibrio del potere tra le potenze. Equilibrio del potere che ha assicurato, salvi la guerra franco-tedesca del 70-71, salvi la guerra di Crimea, alcuni momenti di deflagrazioni, ma ha assicurato 100 anni di pace. E lui inizia a scandagliare le istituzioni che girano intorno a questi anni di pace, che sono l'alta finanza, e sono bellissime le pagine iniziali sul modo in cui i grandi banchieri, che non hanno terra e nazione, tra di loro non complottano, ma cercano di mantenere la pace, perché è una base per lo sviluppo delle attività finanziarie ed economiche in quegli anni. La base aurea come elemento, quella cintura di trasmissione che impedisce il fluttuare delle monete e quindi le operazioni deflazionistiche da parte dei singoli paesi, e che tiene tutto il sistema, e che quando inizia a entrare in crisi trasmette come una cinta di trasmissione la crisi da una parte all'altra del mondo. Poi lo Stato liberale e il costituzionalismo in qualche modo dell'epoca, che secondo Polanyi fu lo Stato a istituire i mercati, e questo in primo luogo lui lo ricorda nelle pagine relative al mercantilismo, dove appunto rilegge il mercantilismo come estensione del mercato dall'ambito meramente locale, territoriale o provinciale al territorio nazionale. Eppure la società del mercantilismo non era una società di mercato, era una società fortemente controllata dalla politica, ma quello che invece avviene nell'Ottocento è che lo Stato liberale comincia pian piano a liberare tutte quelle reti di protezione che impedivano l'espansione dei mercati. E qui sono appunto le parti più importanti per comprendere le origini politiche e economiche della nostra epoca. In primo luogo la mercificazione e la commercializzazione del lavoro. Questa è l'idea, il discrimine fondamentale, che fino diciamo al 1834, mi sembra, quando viene introdotto il Poor Law Amendment Act inglese, ancora limitava l'immissione della forza lavoro all'interno del meccanismo di mercato. Perché è importante comprendere questo? Perché in realtà Polanyi ci dice una cosa importante: la società di mercato non nasce per un singolo fattore, per una serie di fattori convergenti, dei quali primo fu l'innovazione tecnologica, l'invenzione delle macchine e le macchine così costose che avrebbero impiegato per il loro funzionamento economicamente efficiente, quindi per non andare in perdita, che la produzione non avrebbe dovuto mai interrompersi e che fosse stato necessario un afflusso costante di materie prime per la produzione. Quindi non è tanto il colonialismo che è necessario allo sviluppo dei mercati, quanto è il macchinario industriale che impone una ristrutturazione di tutto ciò che c'è prima del processo produttivo. E quindi le materie prime, la terra e i prodotti della terra, il lavoro, che è l'altra grande forza che a questo punto bisogna comprare sul mercato, e per assicurare l'afflusso costante di manodopera è necessario instaurare un mercato del lavoro, che poi insieme agli altri fattori della macchina industriale può produrre la vendita delle merci. Ma cosa si opponeva a che terra e lavoro fossero concepite come merci? Beh, innanzitutto la loro natura intrinseca, perché dice Polanyi non erano merci vere e proprie, ma erano fictitious commodity, merci fittizie, perché non erano prodotte dall'uomo, come la terra, prodotto naturale, oppure non erano prodotte per la vendita, come il lavoro, che era prodotto per la sussistenza umana. Diventano merci fittizie quando si cominciano giuridicamente, qui il ruolo di Polanyi giurista è cruciale, quando si cominciano a incrinare quelle reti di protezione che per consuetudini, per regole legislative, per orientamenti della giurisprudenza avevano assicurato da un lato il perdurare di un assetto fondiario di carattere feudale. Questo nell'Inghilterra, chi studia la property law inglese sa bene che non vi è mai stata una cesura profonda con l'assetto fondiario feudale come abbiamo vissuto nella rivoluzione francese, e quindi le forze di resistenza all'immissione del mercato nel diritto inglese erano importanti sia dal punto di vista del godimento della terra sia dal punto di vista della sua trasmissione, perché infatti una delle riforme più importanti da questo punto di vista, la riforma tipicamente benthamiana, e quindi Bentham riformatore, fu anche un Bentham riformatore per le esigenze del mercato in espansione, fu l'Inheritance Act, la possibilità di trasmettere per successione, per testamento, la terra, e in questo appunto un'analisi parallela anche sull'esperienza rivoluzionaria francese ci deve ricordare che uno dei primi atti della rivoluzione francese fu l'eliminazione della libertà di testare e la libertà di donare, proprio perché elementi volti a mantenere il controllo sull'accesso alla ricchezza nell'epoca dell'ancien regime. E quello che avviene in Inghilterra è da un lato il Property Act Reform dei primi dell'Ottocento e la riforma del diritto successorio che innescano un mercato della terra, che altrimenti sarebbe stato incompatibile con la property law inglese. In secondo luogo, dal punto di vista, dicevo, del mercato del lavoro, tutto il diritto inglese del lavoro antecedente all'epoca della rivoluzione industriale è un diritto autenticamente corporativo. Lo Statute of Apprenticeship, che prevede il tirocinio di durata settennale, il controllo sui salari, l'impossibilità di movimento dei lavoratori, l'impossibilità di lasciare il loro luogo di lavoro, il loro territorio di lavoro e andare a prestare la propria offerta lavorativa in un altro luogo di residenza. Tutti i controlli che assicuravano che il lavoro non fosse reso automatico, non potesse materialmente essere reso una merce. E poi la questione a cui Polanyi dedica un ampio capitolo e che interroga necessariamente la società del reddito di cittadinanza è lo Spinham Land Law, lo Spinham Land Act, che in realtà non era un vero e proprio act, perché non era un atto del Parlamento, ma era un'azione concordata delle corti, e in questo Polanyi distingue il ruolo delle corti dalla legislazione, perché la legislazione in Inghilterra fu in quella fase, essendo il Parlamento controllato dalla gentry che aveva interesse all'espansione mercantile, ci fu all'interno del sistema giuridico un conflitto forte tra la corona e le corti e il Parlamento, quindi il sistema giuridico non fu mai omogeneo, ma il conflitto interno tra le tre forze legato a diversi gruppi di interessi produsse risultati non costanti. Ma insomma Spinham Land fu un esperimento difficile da decodificare. Tuttora, leggendo a diversi in diversi momenti il capitolo della grande trasformazione, si hanno delle impressioni a volte diverse anche dell'opinione di Polanyi su questo punto. Beh, in sostanza Spinham Land servì, fu un'operazione concordata delle corti per integrare il salario percepito all'interno dei rapporti di lavoro con un sussidio prestato dallo Stato in maniera proporzionata al costo del pane, e questo determinò evidentemente, ma su questo Elena è una delle massime esperte, per cui è così, determinò di fatto un calo drammatico della produttività del lavoro, perché non si aveva alcun incentivo a aumentare la produttività né a negoziare attraverso i sindacati, che all'epoca ancora non esistevano, un salario degno, e quindi contando sul sussidio statale vennero limitati gli incentivi a lavorare, a aumentare la produttività, a cercare lavoro e via dicendo. Questo determinò una assuefazione della gente a questo sistema, che fu economicamente ma anche socialmente drammatica, secondo Polanyi, determinò una degradazione degli stessi lavoratori. Però il problema è che una volta introdotto, e questo è l'elemento di ambiguità, una volta introdotto un meccanismo di questo tipo, divenne crudele, e qui la parola è proprio utilizzata da Polanyi, il Poor Law Amendment Act del 1834, che eliminò retroattivamente Spinham Land, eliminò il sussidio e buttò sul lastrico generazioni di lavoratori, quando appunto si erano persi quegli incentivi anche mentali e culturali alla produttività. E questo fu il dramma. Il dramma non era stato, diciamo, leggendolo oggi Polanyi dal mio punto di vista, non era stata l'introduzione di Spinham Land, era che il sistema di Spinham Land era mal costruito. Non sarebbe stato male la regolamentazione del mercato del lavoro, evidentemente, ma quel tipo di regolamentazione istituzionale fece più danni che benefici. Quindi quando poi intervenne il Poor Law Amendment Act, il lavoro fu compiutamente reso una merce, perché eliminato quel paracadute sociale che in qualche modo assicurava la sussistenza, tutto questo appunto determinò il fatto che la forza lavoro era null'altro che una tra le tante merci vendute sul mercato. E poi ovviamente, non ne ho parlato, ma nella analisi di Polanyi e anche nell'esperienza contemporanea è un elemento particolarmente importante il tema dell'enclosure, quindi la chiusura dei fondi comunali, la chiusura dei fondi destinati a terre, diciamo appunto ad accesso comune, che in sé, anche qui Polanyi non è mai lineare nella sua analisi, e per questo è ancora un autore che ci interroga sul presente, ma ci dà elementi di valutazione complessi e contrastanti. L'enclosure di per sé, lui dice, non era necessariamente un male. Il problema fu la conversione della terra arabile a pascolo, della terra arabile dall'agricoltura al pascolo. E fu quello l'elemento che determinò molte delle crisi sociali collegate al sistema dell'enclosure. E qui c'è l'analisi comparata che Polanyi fa in alcuni passaggi tra l'esperienza spagnola e quella inglese rispetto appunto al passaggio dall'agricoltura al pascolo, ma certamente le enclosure furono uno dei fattori sui quali si consumò un conflitto politico rilevante con la corona reazionaria, ma reazionaria dal punto di vista dei liberisti dell'economia politica, reazionaria perché cercava di limitare prima i primi Tudor e poi dopo nella seconda fase dell'enclosure l'alleanza tra le corti e il cancelliere fondamentalmente, quindi la giurisdizione di Equity, cercarono di frenare questo processo verso la chiusura degli spazi comuni. Perché operarono come fattori di contrasto a una rapida conversione del meccanismo da un sistema di economia controllata all'economia autoregolamentata. E dunque questa esperienza appunto fu molto importante perché aiutò la conversione industriale dell'Inghilterra, e quindi si determinò la situazione nella quale terra, lavoro e poi analisi della moneta, la lascio da parte, moneta, diventarono merci insieme alle merci poi prodotte dall'imprenditore attraverso il macchinario industriale. Tutto questo sistema avrebbe potuto funzionare solo se fosse stato lasciato libero di auto-organizzarsi. Però essere liberi di auto-organizzarsi a quello che Polanyi chiamava il satanic mill, il macchinario satanico, avrebbe determinato necessariamente nel lungo periodo l'autodistruzione della natura, l'ambiente, ce l'abbiamo sotto gli occhi, l'autodistruzione dell'uomo, la forza lavoro ridotta appunto a elemento servente del calcolo imprenditoriale, e quindi, e qui è il gioco che Elena richiamava prima tra naturalità e artificialità, il gioco della naturale reazione della società. Ora, su questo credo che sia importante richiamare l'attenzione sulla distanza tra Polanyi e neoliberalismo imperante, ma anche Hayek. Cioè, da un lato, se rileggiamo appunto le opere di Hayek, l'idea che cosmos è il mercato e taxis è l'intervento esterno perturbatore della logica di mercato. In Polanyi è esattamente l'opposto. Il mercato e l'intervento esterno di controllo dei mercati è naturale, come autoprotezione della società, mentre invece il mercato è etero imposto dallo Stato liberale, è etero imposto in quel momento storico dalle forze sociali e istituzionali che avevano interesse all'affermazione dei meccanismi di mercato. E quindi questo è un dato molto rilevante, cioè tutti gli strumenti di autoprotezione della società, siano essi come dire lasciati all'auto-organizzazione dei privati, come i sindacati per esempio, o le chiese, in funzione di gruppi intermedi che reagiscono con la loro azione politica all'avvento dei mercati, siano esse regole statali, come per esempio le leggi sulle fabbriche, sulla salute dei lavoratori e via dicendo, quindi il nascente Stato sociale, siano esse opere della giurisprudenza e quindi reazioni da parte delle corti, sono elementi indispensabili, naturali ed ineliminabili in ragione di quell'assetto innaturale per cui la società diventa servente rispetto al mercato. E questo in qualche modo è un elemento, probabilmente, questo famoso doppio movimento, è un elemento probabilmente perdurante nell'esperienza di un capitalismo che pure è molto lontano dal capitalismo a cui pensava Polanyi, perché la finanziarizzazione dell'economia ha introdotto una variante che in quell'analisi non c'era a questi livelli. Però certamente questa dinamica di reazione della società naturale per la protezione umana, che si sposa anche all'idea di razionalità che Polanyi ha, l'idea di razionalità umana, è uno degli elementi qualificanti dell'opera e rimangono, no, insieme all'idea delle fictitious commodities. Il problema è che questo doppio movimento non è un movimento, come dire, con una fine felice per tutti. Il doppio movimento è il nazionalsocialismo nell'analisi Polanyi. È la frammentazione dei mercati protezionistica, è la limitazione della libertà per preservare il capitalismo. È per questo che per capire la Germania nazionalsocialista bisogna tornare a Riccardo, non perché Riccardo fu la causa determinista della Germania nazionalsocialista, ma perché l'elemento intermedio fu l'autoprotezione della società. E la reazione sociale di autoprotezione può prendere purtroppo tinte e itinerari tutt'altro che felici, come sappiamo. Anche oggi l'esperienza del razzismo di allora non è lontana nel suo uso strumentale nel fomentare le paure dei popoli da una crescente precarietà e una crescente insicurezza, purtroppo è sempre un elemento appunto costante nella storia. Poi qui ci sarebbe anche l'analisi del colonialismo che Polanyi fa e che è molto importante, perché l'autoprotezione funzionava per i nostri paesi e il colonialismo fu una sorta di autoprotezione, perché scaricava all'esterno le tensioni sociali interne, salvo che appunto i destinatari di quella estensione coloniale non avevano la forza interna per produrre un'autoprotezione della società. E questa è la sua analisi della grande trasformazione, con un'idea ancora non ben definita su che cosa avrebbe dovuto poi sostituire. Certamente per Polanyi sarebbe stato possibile una regolamentazione profonda del modello capitalistico e quindi assicurarne una minore distruttività sociale soltanto a condizione di eliminare la commercializzazione di terra, lavoro e moneta. E quindi da un certo punto di vista la sua opinione, anche il suo sforzo intellettuale successivo fu tutto volto, e questo credo che sia un dato importante, a criticare l'idea deterministica per cui eliminando le libertà economiche o restringendo le libertà economiche necessariamente ne sarebbe conseguita l'eliminazione delle libertà civili, che era la tesi di Hayek in Road to Serfdom, la via della schiavitù, e che Polanyi decostruì nei suoi presupposti. E la sua critica del determinismo marxista non è meno affilata di quella del determinismo liberista negli scritti del secondo dopoguerra, e fu appunto volta a dimostrare che un grado sufficiente di libertà civili può coesistere con un grado sufficiente di limitazione delle libertà economiche. E poi tutto questo si sarebbe legato anche a un diverso assetto dei rapporti internazionali. Quando Polanyi muore, malato di tumore, stava correggendo in ospedale le bozze del primo fascicolo della nuova rivista che aveva fondato, che si chiamava Coexistence, e che era volta a tenere insieme studiosi, scienziati della politica dei paesi dei due blocchi contrapposti, perché credeva nella possibilità della politica, delle istituzioni, di mantenere un controllo sull'economia. E il suo richiamo ad Aristotele, alle prime pagine della Politica, la distinzione tra l'economia dell'oikos, della famiglia, e l'economia del mercato orientata al guadagno, è appunto sintomatica di questa sua profonda fede nella capacità di mantenere un elemento, cioè l'elemento di un'economia avanzata, con il rispetto dei valori dell'uomo e della libertà umana. Quindi fu un pensatore profondamente utopico, Polanyi, nel senso orientato sempre con la sua opera al perseguimento di ideali di coesistenza umana e di sviluppo della personalità, e in questo anche l'unione del suo profondo cristianesimo, no? Quando in alcune delle sue opere dice che i due grandi profeti della storia dell'umanità sono stati Gesù e Marx. In questo credeva profondamente Polanyi, a questo dato, e insieme alla sua profonda fede socialista. Questi due elementi che lo portavano a un'azione politica che coniugava ciò che in certi momenti può sembrare inconciliabile, è stato a mio avviso appunto un segno della grandissima modernità dell'opera di Polanyi, con la quale siamo tutti chiamati a fare i conti, quale che sia la disciplina della quale ci interessiamo. Grazie. L'unica cosa, diciamo, di disaccordo, Giorgio Resta ha aperto questa relazione dicendo: sono un dilettante rispetto a Polanyi. Non lo so, io avevo un'altra, come dire, accezione della parola dilettantesco, ma devo un po' rivedere il mio vocabolario. Ma con questo do la parola immediatamente a Mariuccia. No, Salvati, io sono talmente d'accordo su quello che hai osservato che mi limiterò a fare delle osservazioni delle chiose a quanto è stato detto, perché mi sembra che sia veramente molto bella il quadro che lui ci ha dato. E del resto, ripeto, avevamo già avuto anche occasione di parlarne quando abbiamo presentato qua appunto questa raccolta di scritti per un nuovo Occidente di Polanyi, appunto curato come appunto come ha detto e che già aveva immesso appunto di pochi anni fa, intendiamoci, però appunto sulla base anche di questa nuova ricerca fatta sulle carte e con l'aiuto della figlia di Polanyi. No, vabbè, lasciamo stare, guarda. Non ho spento il telefono, scusatemi. Dicevo appunto, questa relazione, questa antologia già di per sé, a mio avviso, aveva spostato assolutamente l'asse appunto della ricezione di Polanyi. Scusate, no, ma devo spegnere perché altrimenti qua non smette. Scusate. Ma se sono i nipotini poi... No, era Biasco, guarda, non so come mai, ma... Scusate. Mi avrebbe fatto piacere di rispondere, ma non è il caso. Allora, dicevo appunto, già la pubblicazione di questa antologia è stata importante perché ha rappresentato un passaggio avanti rispetto alla ricezione iniziale di Polanyi nella nostra cultura, diciamo, nella nostra storiografia. Io forse mi soffermerei più su questo perché effettivamente il quadro che ci ha dato è così chiaro e anche aggiornato rispetto ad altri studi usciti e rispetto anche all'antologia stessa da lui proposta che ha portato novità interessanti. Quindi farei... mi soffermo in questo momento sulla novità di questo libro, di questi saggi che ha proposto appunto Resta 4-5 anni fa, rispetto alla ricezione precedente. Perché Polanyi è entrato nel nostro dibattito italiano ma direi europeo continentale, in una maniera che risente moltissimo di una lettura del Novecento prevalentemente imperniata sul conflitto fascismo-antifascismo. La frattura rappresentata prevalentemente dagli anni 30, la frattura rappresentata dalla Shoah, dalla Seconda Guerra Mondiale. Questo, badate, ha voluto dire nella nostra storiografia appunto un fare i conti col nostro passato, perché il nostro passato era strettamente legato ovviamente a fascismo e razzismo. Tanto è vero che continuamente siamo costretti a ritornarci, ma quello che mi colpì quando cominciai a studiare Polanyi, che fu tradotto negli anni 70, La grande trasformazione, era quasi l'impossibilità di parlarne in una facoltà di storia contemporanea. Perché, voglio dire, uno storico contemporaneo, uno studente, si iscriveva e voleva sentire parlare del conflitto nazismo, comunismo, fascismo, antifascismo. E questo, ce l'ha spiegato bene adesso Giorgio resta, dire, rimane, non rimane indietro, ma rimane a latere rispetto a quello che si stava appunto cercando di capire o di riscoprire di quegli anni. Però è interessante notare che invece Polani, esce il libro di Polani sull'onda, da un lato, degli antropologi e storico-antropologi, appunto, mi ricordavi il nome di Raffaele Romanelli, insomma, quindi storici in gran parte anche modernisti, sette-ottocentisti, quasi per niente dai novecentisti, totalmente ignorato dai contemporaneisti, come, diciamo, come dalla storiografia contemporaneista. Nello stesso tempo, però, la nostra storiografia, la nostra riflessione sul Novecento, negli anni 70, progrediva grazie a che cosa anche? Alla pubblicazione di testi fondamentali della cultura tedesca, poi sostanzialmente, cioè dei testi di studiosi come Franz Neumann, degli studiosi francofortesi, ma mi riferisco in particolare a Franz Neumann perché Franz Neumann è l'espressione negli anni venti, prima dell'emigrazione, di una cultura socialista attenta a che cosa? Attenta a una regolazione costituzionale del conflitto. Quindi oggi, casomai, lo riscopriamo proprio sotto questa luce, sotto questa chiave. Il problema di Polani, e così come appunto ce l'ha anche adesso spiegato Giorgio, è che la dinamica della grande trasformazione, che viene ricondotta prevalentemente in realtà a un conflitto che si svolge in gran parte dentro la Gran Bretagna e dentro la cultura britannica, cultura filosofica, cultura anche utopistica, diciamo, queste spesso appunto le utopie di riferimento del possesso della terra sono appunto tipicamente britanniche. Owenite, è Owen poi il punto di riferimento, è un Owen che poi si trasferisce anche negli Stati Uniti d'America, che vede tentativi di realizzazione anche lì, è un Owen che viene spesso richiamato anche nella nostra cultura, ma appunto se posso guardare all'indietro, diciamo, rispetto a quegli anni, è prevalentemente questo filone che guarda la cultura inglese, che insiste su una come dire, attenzione antropologica alla dinamica sociale, e quindi Edoardo Grandi, Raffaele Romanelli, da questo punto di vista sono tra i primi ricettori, e che non a caso viene appunto tradotto con una prefazione di Salzano. Perché dico questo? Perché la cosa che mi colpisce in questo momento è anche una congiuntura che vede un'attenzione particolare anche di studiosi meridionali, che sono i primi anche da noi, e parlo della scuola barese per intenderci in gran parte, e penso per esempio a una casa editrice come la di Donato, che ha questa attenzione appunto a una cultura, siamo negli anni 70, che è appunto il momento in cui viene pubblicato questo libro, Chi lo pubblica? Alfredo Salsano, che viene dalla Terza e che appunto, trasferitosi a Torino, pubblica questo libro, come pubblicherà poi anche altri scritti, e sarà molto attento a questo. Cioè, cosa vuol dire? C'è un cortocircuito che avviene nella nostra storiografia e che lega Polani al grande dibattito poi sulla questione meridionale in Italia. Cioè, Polani entra in un circuito di attenzione che fa leva su questi temi. Non a caso Lelio Basso, non ci dimentichiamo che Basso aveva pubblicato un saggio su Pisacane, era appassionato di temi del meridionalismo, era legato a moltissimo, che so io, appunto, sezioni socialiste come quella di Cosenza, per esempio. Franco Zannino viene chiamato a dirigere i problemi del socialismo appunto da Reggio Calabria per questo, insomma, no? con questa dimensione. E Lelio Basso, appunto, è stato anche spesso appunto rimproverato nei suoi studi socialisti di non avere prestato attenzione a certe appunto letture più novecentiste, diciamo, delle trasformazioni anche del capitalismo, insomma. Quindi voglio dire che è interessante vedere questo aspetto della ricezione in Italia, perché credo che fosse, diciamo, perché l'altra, che a che cosa, diciamo, che cosa soppianta questa interessantissima lettura, che ripeto è legata per esempio all'origine di una rivista come Quaderni Storici. Proprio i primi numeri sono questo. Grendi è il primo studioso che legge anche Polani, e questo appunto, però rimane una nicchia abbastanza riunita, abbastanza conclusa, che troverà poi eventualmente di nuovo una attenzione. Guardate, qui si può andare a vedere veramente la stampa delle riviste storiche, i picchi di attenzione delle riviste storiche negli anni del Novecento, che trova poi un filone di continuità, se possiamo dire così, con l'attenzione che c'è stata a un certo punto per E.P. Thompson e la formazione della classe operaia in Inghilterra. E di nuovo la formazione della classe operaia in Inghilterra vede il nucleo portante, insomma, della ricerca attorno al 7-800. Questo per dire che lo stesso Grendi, insomma, si rende conto che il suo nodo fondamentale è quello. Se la rivoluzione industriale nasce in Inghilterra, è come se dicesse è ancora da lì che si deve appunto ripartire per appunto correggere gli errori che ci sono stati che sono stati fatti. Il fatto è che così, in qualche modo, la ricezione della grande trasformazione diventa anche una cartina di tornasole per capire qualcosa che ha rappresentato, possiamo dire, appunto, la deviazione novecentesca rispetto a una sviluppo di crescita, diciamo, della trasformazione che ha le sue origini nel Settecento, e che poi è come se riprendesse da un certo punto in poi, ma con un pezzo in mezzo. Beh, quel pezzo però è un pezzo cruciale, ed è il pezzo del fascismo e del nazismo. La caratteristica di questo libro, appunto, della grande trasformazione, è lo sforzo di, in qualche modo, ridurre forse il significato del fascismo, ridurlo a una specie di deviazione folle, ma appunto ingiustificabile, perché in realtà Polanyi dice gli strumenti per uscire dall'impasse che appunto la strada indicata dall'Inghilterra con Spingarn Law e quello susseguente, diciamo, doveva essere corretta, doveva essere il nodo appunto degli anni 70-80, anche nella ricezione di questo libro, è proprio questo. Come la mettiamo comunque con quello che è successo negli anni 30? In un certo senso, del resto questo si è discusso allora, c'è quasi una sottovalutazione del fascismo. Vabbè, il fascismo è stata una mostruosità, l'abbiamo chiuso e lì finisce. In qualche modo lui riprende la sua speranza, diciamo, da Wilson del dopoguerra a Roosevelt negli anni 30 e poi appunto al welfare state e alla, come dire, alla possibile appunto visione di un ritorno della democrazia, sempre a partire da una correzione consapevole di quello che era accaduto col crollo della Prima Guerra Mondiale. Vi leggo proprio come introduce il libro, perché secondo me è questa la cosa. La pace dei 100 anni, la civiltà del XIX secolo è crollata. Questo libro si occupa delle origini politiche ed economiche di questo avvenimento, oltre che della grande trasformazione che l'ha seguita. La civiltà del XIX secolo poggiava su 4 istituzioni, e queste ci sono state già spiegate: l'equilibrio del potere, la base aurea internazionale, il mercato autoregolata e lo Stato liberale. Classificate in un certo modo, 2 di queste istituzioni erano economiche e 2 politiche. Classificate in un altro modo, 2 di queste erano nazionali e le altre 2 internazionali. Messe insieme determinavano i lineamenti caratteristici della storia della nostra civiltà. Cioè, come dire, la nostra civiltà nel suo complesso, quasi che il successivo, e lo si vede anche nell'ultimo capitolo quando parla del fascismo, fosse così un by-product, fosse una deviazione, ma il nodo vero, il problema vero fosse questo. E forse non aveva torto, Però provate voi a leggerlo con gli studenti negli anni 80, cioè dire fascismo e nazismo lasciate perdere che non conta niente. Quindi tutto il conflitto ideologico, il conflitto razziale non conta. Vi faccio un esempio. La famosa la Di Donato, di cui parlavo prima, pubblica dei libri incredibili, insomma, tra cui, lo ricordo perché è appena stato dato un premio alla carriera a questo autore, tra cui Charles Myer, La rifondazione dell'Europa borghese, The Recasting of Bourgeois Europe, un libro pubblicato negli anni 70, in cui Myer, Tommaso così, grande tesi di Harvard, insomma, no? Di PCD o pressappoco, prende in considerazione gli anni 20. E mentre, così, abbiamo Cacciari e tutta la scuola di quel tipo che pubblica i francofortesi, pubblica appunto Franz Neumann, ma Neumann poi va in America. Il libro di Mayer, ostico per quanto sia, riprende in mano decisamente, esattamente il punto da cui parte Polanyi, nel senso che quello che conta negli anni venti era ricostruire delle regole istituzionali di convivenza e far ripartire il mercato, e fare ripartire appunto assolutamente il mercato, invece di, come è stato fatto, di chiudersi e ciascuno si chiude nel proprio Stato nazionale e lì risolve i propri problemi. Non era più possibile, perché ormai quelle famose regole ottocentesche che prima abbiamo ricordato, cioè finanza internazionale, regolazione internazionale, prevalentemente appunto in parte economiche e in parte istituzionali, quindi appunto in questo caso stati sovrani ma parlamentari, ecco, avrebbero dovuto ricomporsi e non lasciare ciascuno Stato dire vabbè, tu te la sbrighi da solo, ciascuno dentro i propri confini. Non era più possibile, non era più possibile. Questa era la cosa di fondo e questa è in qualche modo un nodo che Polanyi non affronta, ovviamente, perché torna indietro a vedere come era stata originata una grande circolazione che però aveva sul côté politico lo Stato nazionale, il quale dipendeva certo dalla formazione aurea, dalla moneta, e che quindi appunto aveva i vari Rothschild che regolavano questa formazione aurea, ma che però appunto sempre nei limiti nazionali si era chiuso. Questa è la cosa interessante. Il libro di Mayer, che è uno storico economico, fa vedere come appunto l'impatto negli anni venti, questa la ricostruzione dell'Europa borghese, la chiama giustamente, questo suscitò, badate, una discussione, ma in Italia fu poco letto, fu pochissimo letto, nonostante lo sforzo appunto del Donato di tradurre questo libro, fu pochissimo letto, fu preso solo in considerazione poi dagli economisti in gran parte, perché poi Charles Mayer è un economista, quindi andò avanti, scrisse poi un libro sul secondo dopoguerra, vedendolo appunto il secondo dopoguerra come il compimento del primo all'interno di questa dimensione crescente di internazionalizzazione, di incrementazione delle, appunto, delle regole intranazionali, diciamo, no? Cioè che il buco nero erano stati appunto i fascismi in quanto nazionalisti, in quanto chiusi, in quanto e quindi ovviamente il buco del peggiore, insomma, era la conseguenza di questa chiusura, perché ormai questo passaggio era stato fatto, l'internazionalizzazione dei mercati era stata fatta. Questo era il problema. Il problema era recuperare quella dimensione. La cosa paradossale, che cos'è? È appunto che, nonostante tutto, Polanyi aveva ragione. Ma non nel senso di dire che bisognava tornare, questo io, al mercato autoregolato, insomma, dire, a una dimensione più umana anche del mercato. Però aveva ragione nel mettere in luce quella dimensione di relazioni economiche, quella dimensione di diciamo soprattutto di necessità di un intervento regolatore. In qualche modo le istituzioni contano, ecco, no? Scrivi tu, porti tu questo pezzo. Lui non parla mai di istituzioni, ma in realtà poi invece queste cose poi le nomina, naturalmente. Perché dove voglio arrivare? Voglio arrivare che a un certo punto questo mercato deve esistere, ma deve essere regolamentato. Questa è la lettura di Polanyi. E questa cosa qui, se voi andate a vedere appunto la lettura sia di Polanyi, sia appunto degli altri classici degli anni 70, è in qualche modo come se fosse ignorato questo aspetto, mi sembra. Cioè questa dimensione di un intervento economico in cui appunto la regolamentazione istituzionale e costituzionale, sappiamo bene, è importantissima. Perché? Perché lo storico dell'epoca, voglio dire, mi metto anch'io lì dentro, cioè sono esattamente coeva di quelle cose, vive in un contesto che è quello europeo, che è in realtà fortemente regolato da un'economia che ha il suo polo ovviamente in America, prevalentemente appunto post di mercato regolato occidentale, e quindi non è alle prese con i conflitti drammatici del crollo del capitalismo, che invece si realizza alla fine degli anni 20. Tutto sommato, appunto, Polanyi ci dice, in fondo il fascismo degli anni 20 andava bene, perché era una delle forme nazionali di risposta alla crisi della Prima Guerra Mondiale. Che cosa diventa drammatico? Diventa drammatico gli anni 30, quando appunto dopo la crisi del 29, dopo appunto la mancata regolazione degli strumenti monetari, fa scatenare la chiave etnoraziale dei paesi che, come appunto la Germania, cioè la chiamata in nome della razza dei propri concittadini alla convivenza, ecco, su questo terreno qui. Ma quello è un terreno che vince perché è stata sconfitta proprio di recente, abbiamo fatto appunto anche una ricostruzione della società delle nazioni, è stata sconfitta la società delle nazioni. Ma perché è stata sconfitta? Perché non c'era il terreno economico capitalistico nuovo verso il quale appunto Charles Myers ci diceva appunto, no, la rifondazione dell'Europa borghese, cosa può avvenire? Attraverso una ripresa appunto dell'economia, così con le sue distinzioni ovviamente di classe eccetera, ma all'interno di un sistema largo di mercato e così via. Questo diciamo è un côté, secondo me, importante di quella lettura, che intreccia appunto anche la storiografia. L'altro côté, secondo me, storiografico che ha avuto questa lettura, insomma, di Polanyi, è certamente che è ritornato quando? È ritornato un po' dopo, ecco, cioè è ritornato alla fine degli anni 90, nel 2000, cioè è ritornato in una chiave, ripreso, diciamo così, dagli studiosi più di lungo periodo, che diciamo più di lungo periodo e meno legati al Novecento, e in genere invece in una chiave di attenzione alle questioni del Sud, diciamo così, alle questioni del Sud, del Mezzogiorno, dei Sud del mondo, ecco, dei Sud del mondo, cioè come rispondere a queste difficoltà di questi paesi, compreso il nostro Mezzogiorno. Ecco che la chiave antropologica, etnoantropologica appunto di Polanyi, diventa di nuovo importante. Perché? Perché appunto vi è questa attenzione alla costruzione di un mercato, che appunto parta dalla terra, parta da, da regole condivise, che sono regole etiche, perché poi appunto Giorgio ricordava giustamente, insomma, no? La forte ispirazione etica di una persona come Polanyi, di uno studioso come Polanyi. Questo lo vediamo negli studi, soprattutto, ripeto, legato anche al mezzogiorno italiano, visto in un contesto mediterraneo. Io ci trovo anche, adesso forse non riesco a spiegarlo bene, ma questo circuito che ha visto poi una ripresa anche negli studiosi di età contemporanea di nomi, di autori del passato che si erano stati momentaneamente accantonati, ecco, in nome di una visione tutta tecnocratica, diciamo, della convivenza, si ritrova anche, per esempio, in una ripresa gramsciana. Ora, Gramsci non è proprio così distante, per certi aspetti, ecco, da questa presenza, insomma, da questa necessità di attenzione a una regolazione, anche etico-politica, ecco, del mercato. Lo si ritrova, secondo me, soprattutto negli sviluppi di un economista come Amartya Sen. Ecco, io vedo, diciamo, questo filo, ecco, in una, sembrerà forse paradossale, ma non così tanto. Chi ha, diciamo, si è appassionato di questa figura, appunto, del resto Polanyi, ovviamente, io l'ho studiato soprattutto per La grande trasformazione, essendo una studiosa del fascismo, del periodo fra le due guerre, della ricostruzione, ma per studiosi di lungo periodo della storia italiana, ripeto, lo trovo ancora molto, questa eco la trovo molto in questi altri autori. Ecco, la cosa che appunto mi colpisce è il fatto che forse certe cose si recuperino per strade diverse, nel senso che molti degli studiosi tedeschi negli anni 20 più attenti e più, insomma, attenti al destino della Repubblica di Weimar, poi in fondo emigrano negli Stati Uniti e lì trovano l'eredità, forse trovano lì l'eredità di Polanyi, la trovano nella continuità di un Polanyi più antropologo, diciamo, che economista. Ecco, questo sì, cioè la tenuta della società, ecco, la tenuta della società, che non è, appunto, che ha bisogno di qualcosa di più che non il semplice mercato, ecco, e che appunto il mercato ha funzionato perché poi c'era anche lo Stato, e poi c'era l'alta finanza a livello internazionale. Ecco, questo crolla, quindi c'è bisogno nel 29, c'è bisogno di una nuova regolazione internazionale che noi avremo nel secondo dopoguerra grazie alla presenza americana e alla nuova, come dire, spinta economica e sociale, e attenzione sociale, perché poi c'è anche questo, naturalmente, insomma, no? Roosevelt è spesso ricordato, cioè l'attenzione a Roosevelt qui è forte, perché si aspetta da lui questo. Stiamo parlando di Roosevelt, di personalità che avevano, come Beveridge, insomma, no? che avevano questa invece memoria inglese, memoria della tradizione britannica, che è anche intrisa di codici morali, fortemente intrisa di codici morali, Ed è questo che ha reso possibile poi l'affermazione appunto di questa dimensione. Keynes, Roosevelt, sono appunto personalità, e appunto Giorgio prima ricordava la formazione di Polanyi, ecco, appunto questa formazione di Polanyi, tra l'altro è impressionante leggerla, perché lui si forma, come dire, nasce in Ungheria alla fine degli anni Ottanta, e vive in una Ungheria che però, badate, è l'Ungheria mitteleuropea. Cioè è impressionante vederla adesso, questa biografia, perché è l'Ungheria mitteleuropea, quindi con i codici morali, con i codici culturali, con le divisioni di classe, insomma, no? che è quella. Insomma. E dopodiché appunto si trasferisce a Vienna. E Vienna di nuovo, abbiamo le esperienze che sappiamo, e costante della sua vita, e io credo che questo voglia dire moltissimo, costante della sua vita è stata, come diceva Giorgio, non ha mai potuto avere una cattedra universitaria, ma ha sempre fatto educazione per gli adulti. Ha sempre fatto educazione per gli adulti. E se il suo, diciamo, modo di scrivere è in qualche modo appunto difficile, ma didascalico, diciamo, ma che vuole spiegare, è perché appunto questo fa, e questo lo fa negli anni 30, attraverso quelle straordinarie poi agenzie di educazione che l'Inghilterra possedeva e su cui regge il suo senso della democrazia. Un'ultima cosa che vorrei osservare, l'Inghilterra. Ecco, noi abbiamo questa, è impressionante questa cosa, abbiamo appunto la nostra idea dell'Inghilterra, è l'Inghilterra industriale. In realtà, se noi andiamo a leggere la letteratura, se noi leggiamo i grandi studiosi, l'Inghilterra industriale è solo oggetto di denuncia, non è mai nemmeno la protagonista dei romanzi, della letteratura. La letteratura è sempre embedded nel countryside o comunque nelle colonie, ma non certo nelle industrie manifatturiere. E questo è anche la forte differenza. Thomas Hardy lo consideri countryside? Scusa? Thomas Hardy è countryside, sì. Bah, voglio dire, sì, in qualche modo sì, perché lui sì, sta lì. Lui sta lì. Dickens è la periferia. Dickens è la periferia, non è l'industria, è la grande città. È la grande città che non è soltanto... no, ma io non faccio una, per carità, non ne fa, però diciamo, normalmente è vista così, ecco, insomma, penso di sì, ecco, c'è penso di sì. Il passaggio di Polanyi, cultura nell'Inghilterra democratica, ecco perché mi ricordavo. Costruito dal countryside dell'Inghilterra, invece la storia delle città del medioevo europeo. Esatto, era questo adesso che hai fatto benissimo a ricordarmelo. Cioè, noi abbiamo il continente ha, appunto Weber, insomma, no? Il continente ha la tradizione della città, Anche questo sono anche adesso facendo appunto il lavoro sulla Treccani, l'Europa, appunto le città le abbiamo costruite sul continente, insomma, no? Perché questo ma non sull'Inghilterra. Comunque adesso questa è una grazie dell'osservazione, però io appunto forse mi fermo qua perché forse ho già detto abbastanza. Grazie anche a Mariuccia Salvati per questa stimolante e appassionata anche relazione. Adesso mi sembra che consuetudine avere una pausa, chiedo alla direttrice della scuola. 5 minuti di pausa, dice la direttrice, e quindi ci vedremo subito dopo per le domande. Grazie. Ecco. tra tante obiezioni, una cosa che secondo me merita di essere riflettuta, dice: ma se in fondo il problema è stato quello dell'eccessivo livello a cui si è spinto il capitalismo, e quindi se l'autoprotezione della società è un fenomeno naturale e che dovrebbe dar vita a quella insostenibilità e quindi alla grande trasformazione, come spieghi tu, Polani, che sia l'Inghilterra sia gli Stati Uniti, che sono state la patria del capitalismo, non hanno vissuto l'esperienza dittatoriale come esito drammatico, no, degli eccessi del capitalismo? Questo che sia, credo che sia un problema che, al quale Polani risponderebbe dicendo, davvero comparatista, che non esiste una spiegazione unitaria e tutte le differenze sono differenze relative, per cui l'uscita, diciamo, degli Stati Uniti nel New Deal rooseveltiano fu un'uscita drammatica per quei tempi, e anche la storiografia che oggi in qualche modo avvicina il New Deal rooseveltiano all'esperienza dello Stato corporativo italiano è significativa. Ma io ricordo per esempio che quando noi insegniamo il diritto costituzionale americano, una delle cose più importanti sulle quali insistiamo è il caso Lochner versus New York del primo decennio del Novecento, che era un caso in cui appunto la Corte Suprema degli Stati Uniti aveva detto che la legge dello Stato di New York per limitare l'orario di lavoro dei panettieri a 12 ore giornaliere massime era incostituzionale, perché creava una sorta di espropriazione della proprietà, che era la libertà di contratto, era vista come property protetta dal 14° emendamento della Costituzione. Giusto per dire che in quegli anni, cioè nei quali parliamo, veramente esisteva una compattezza di opinioni ideologiche, di modelli di pensiero, che dal liberismo economico arrivavano allo Spencer, diciamo, sul piano sociale, e poi incideva sui giuristi, e era tutto un mondo, e quindi il mutamento culturale al quale si faceva riferimento era un mondo che era vissuto e si era costruito su queste idee, e quindi doveva sembrare assolutamente naturale che la società fosse regolata in quel modo. E quando iniziarono le prime forme di intervento statale nell'economia, soprattutto in un paese come gli Stati Uniti, che aveva costruito il suo modello di convivenza frammentando il potere pubblico con la Costituzione, frammentandolo sia al suo interno sia nel rapporto tra Stati e Federazione, questo fu vissuto come un cambiamento drammatico. Quindi sì, certo, non c'è stato l'esito dittatoriale, ma c'è stato uno stravolgimento e quindi una grande trasformazione veramente nell'assetto, persino negli Stati Uniti. E per questo, cioè proprio perché Polani è uno studioso del mutamento sociale, in questo libro, proprio per il modo in cui lui ricostruisce il mutamento, che chiama in gioco il potere in primo luogo e la politica, è dal mio punto di vista molto più moderno di tutta la corrente neoistituzionalistica che guadagna e che miete successi nelle varie discipline, no? Da Douglas North, Williamson in poi, e lo sviluppo del neoistituzionalismo anche nella scienza della politica, in diverse altre discipline, perché in realtà l'analisi del mutamento sociale fatta dagli economisti neoistituzionali oggi è un'analisi profondamente distante da quella che ci propone Polani. È un'analisi che richiama la naturalità sotto le mentite spoglie dei costi di transazione. Cioè il mutamento sociale opera quando diventa economicamente più efficiente, in funzione dei costi di transazione esistenti, adottare un diverso modello sociale. Se voi leggete un saggio bellissimo di Douglas North del 77, in cui diceva il problema Polani, e diceva bisogna fare i conti seriamente con Polani, ed era uno dei pochi economisti che io conosco, storici dell'economia, che in quegli anni prendeva seriamente Polani, lui dice, è interessante perché Polani costruisce buona parte della grande trasformazione, poi Traffici e Mercati, sulle risultanze di Malinowski, Moss, Grunwald e gli altri grandi antropologi che in quegli anni appunto davano delle linee di lettura delle economie primitive. Ebbene, North, che dà la spiegazione del perché nelle isole Trobriand il commercio fosse un commercio fondato sul meccanismo del dono, del lasciare le collanine e poi ricevere in cambio, perché era un modello sociale di organizzazione, la spiegazione che dà North dice perché esisteva quel sistema perché era socialmente efficiente in funzione dei costi di transazione, perché mancando uno Stato sarebbe stato difficile attuare diritti di proprietà e contratto. E quindi quando, per esempio, si introduce il filo spinato, il classico esempio dell'analisi economica americana, nelle praterie per chiudere il bestiame, diventa economicamente efficiente introdurre diritti di proprietà. Cioè la spiegazione del mutamento sociale è essenzialmente una spiegazione evoluzionistica di tipo naturale. È naturale che i mercati si affermano non appena esistono le condizioni in termini di payoffs che determinano l'affermazione dei mercati. La spiegazione di Polanyi è no, è la scelta istituzionale che è il prodotto del conflitto politico. E quindi c'è un conflitto politico per la costruzione delle condizioni istituzionali anche al giorno d'oggi. Non c'è naturalità, non c'è determinismo. Anzi, c'è un passaggio in cui Polanyi dice non possiamo vedere la storia dal punto di vista e dagli occhi dei vincitori, perché non è detto che se quel processo sociale fosse andato diversamente le condizioni attuali di oggi ci porterebbero diverse precomprensioni della realtà. E quindi io penso che questo elemento culturale è estremamente importante, perché un altro dato credo decisivo della formazione di Polanyi è la sua come egli entra nel dibattito sulla neutralità delle scienze sociali, e quindi anche Weber, perché Polanyi rivendica la profonda differenza che esiste tra scienze sociali e scienze della natura o scienze dure. Che le scienze sociali costruiscono il loro oggetto e lo modificano nel momento in cui propongono la categoria e la teoria. Quindi l'economia, la scienza della politica, il diritto non sono neutre già nel momento in cui costruiscono le categorie prima di applicarle alla realtà. E per cui tutto il suo sforzo è quello della decostruzione dei presupposti epistemologici dell'economia politica. Quindi per questo insisto ancora, la teoria del mutamento sociale si lega a una certa idea della razionalità dell'individuo, che non è la razionalità diciamo orientata al profitto come poteva essere in Edgeworth il primo principio dell'economia politica, e questo credo che sia un elemento oggi da rivendicare con grande forza, perché noi viviamo nel diritto e nelle altre discipline una profonda diffusione e acritica accettazione dei postulati dell'economia neostituzionale. Quindi teoria dei diritti di proprietà, teoria del contratto, teoria dei costi di transazione come variabili esplicative di qualsiasi cosa. E poi sul secondo punto volevo fare poi una domanda ad Elena, poi dopo, su euro e gold standard. Cioè una tua percezione, perché è una cosa che ci porta a interrogarci ovviamente, no? Facciamo ad Angelo la domanda, caso la No, ecco, leggendo Polanyi, evidentemente nelle quattro condizioni della società del mercato autoregolamentato, se noi facendo questo esercizio difficilissimo volessimo trasporlo al giorno d'oggi, poi alla fine è una cosa che ci spiega perché è tuttora importante leggere Polanyi, ma in fondo la costrizione che si è introdotta nel nostro sistema europeo attraverso il meccanismo dell'euro, con tutti i vantaggi che questo hanno conseguiti, ma con quel effetto di trasmissione delle catene di crisi da un lato all'altro del sistema europeo e delle difficoltà di adattamento, assieme al ruolo dell'alta finanza che si richiama prima e al problema del mercato autoregolamentato, non rischia di riprodurre le condizioni istituzionali di quell'epoca? Certamente le cose sono molto diverse, la costruzione del diritto comunitario ha in sé il tema fondamentale dei diritti umani, anche se poi sappiamo che insomma, anche gli orientamenti della Corte di Giustizia non sono stati molto simpatetici nei confronti delle forze di autoprotezione della società, se pensiamo alle pronunzie Viking e Laval, quelle sulla concorrenza e il ruolo dei sindacati. Ma il problema è effettivamente l'euro slegato dagli altri forme di controllo sulla politica, la tassazione, sulla politica sociale, non rischia di riprodurre questi esiti drammatici dell'autoprotezione? Questo è, penso, un interrogativo che ci portiamo tutti dentro, tutti noi che in qualche modo abbiamo anche una grande ammirazione nei confronti di quello che si è realizzato agli anni 50 oggi con l'Unione Europea, e che siamo profondamente e convintamente europeisti. Però leggendo Polanyi il dubbio in qualche modo sorge spontaneo. di storia. Quello che non, Polanyi ovviamente va a un certo punto in America, quindi America, Canada, e quindi il suo punto di vista rimane a quel punto fortemente incentrato su, su due paesi anglosassoni. Ecco, i due paesi anglosassoni hanno, e qui invece introduco quest'altro aspetto che poi su cui può dire molto meglio di me Giorgioressa, cioè hanno una cultura politico-istituzionale, giuridico-istituzionale profondamente diversa dal continente europeo. Io personalmente ho, come dire, ho elaborato una mia così ricostruzione storica che vede un punto importantissimo nel passaggio degli esuli weimariani, quindi penso a Franz Neumann, negli Stati Uniti, là dove Neumann opera, come sappiamo, proprio in funzione della vittoria militare, no, l'SS, insomma, della vittoria militare contro negli anni della, mentre scrive il Behemoth, insomma, si opera attivamente perché abbia, perché le forze democratiche possano vincere ovviamente il nazifascismo, ma nello stesso tempo, ritornato in Germania, riprende un discorso weimariano che è in qualche modo la codificazione dei diritti. Cioè, voglio dire, non ci dimentichiamo che il paese anglosassone, Polanyi l'ha ben presente perché viene appunto dal mondo austro-ungarico, ha una struttura istituzionale, costituzionale, che continua a essere diversa da quella continentale. Il passaggio che interviene, a mio avviso, a partire dal secondo dopoguerra e che oggi ci serve ancora rispetto a questo discorso appunto della mancata regolazione dell'euro che invece naviga per tutt'altre sfere, è una regolamentazione di tipo costituzionale che, Giorgio mi spiega, e spiega a voi anche meglio di me, ha una sua caratteristica nel continente europeo e ha una sua tradizione nel continente europeo che non ha ovviamente nel mondo anglosassone. Questo è ciò che oggi tiene in vita un movimento di opposizione, perché noi tutti siamo attaccati all'idea della Costituzione europea italiana o le Costituzioni che si sono formate nel dopoguerra. È stata un'operazione consapevole quella di appunto di rifondare l'Europa, prima i paesi europei usciti dal fascismo e poi l'Europa, su un testo costituzionale, un'operazione anche artificiale, ma di fatto noi abbiamo una Costituzione europea che può essere con determinati appunto diritti che sono che cosa? Esattamente quei freni appunto alle macchine diaboliche o altre relazioni di questo tipo, diciamo, che oggi hanno, ecco, non, diciamo, no, tutto questo ovviamente in Polanyi non c'è, non può esserci, non c'era ovviamente neanche nella sua esperienza europea. Quindi questo passaggio però costituzionale io lo trovo fondamentale, perché se noi oggi riusciamo a costruire un movimento di opposizione lo facciamo su questo terreno qua. Ecco perché, che è un passaggio costituzionale che non è soltanto ovviamente un passaggio di difesa di libertà, ma che è anche affermativo, come abbiamo visto, pensiamo appunto ai diritti sociali, ai diritti del lavoro, insomma, su cui ecco, credo che io, diciamo, l'altra cosa è quella che è stata ricordata, insomma, la tradizione inglese, americana, eccetera, una tradizione proprio anche di lotte operaie diverse. mi colpisce per esempio il fatto che Vittorio Foa però a un certo punto si ritirò in Inghilterra dopo che aveva lasciato il sindacato a scrivere la Gerusalemme liberata, cioè a raccontare la lotta della classe operaia inglese agli inizi del Novecento. Questi sono degli aspetti, i freni, diciamo, del mondo anglosassone, se noi vogliamo riprendere appunto i punti di fondo, insomma, sono una società che è profondamente regolata non sulla base appunto della Costituzione, ma su regole che si è data essa stessa, e che noi appunto, esattamente come diciamo, io trovo un'affinità incredibile appunto tra Adam Smith e Jane Austen, cioè quel mondo lì, ecco, un mondo che si basa ed è stato basato su il terribile diritto, l'avrebbe chiamato Stefano Rodotà, sul diritto di proprietà. Ci ha dato Mr. Darcy, ma ci ha dato anche Smith, insomma, no? Cioè la società deve però regolarsi rispetto alle leggi del mercato, ma è un dovere morale, nessuno lo codifica mai, come arriverà Beveridge a dire: piano, a questo punto salviamo i nostri cittadini perché li mandiamo in guerra, ma salviamogli almeno i figli dandogli il latte. Ecco, da lì nasce il welfare britannico. Noi ci richiamiamo alla Costituzione Weimariana del 19, che risponde alla Costituzione sovietica e cerca di rincorrere naturalmente l'altra parte di Berlino che sta a est, e la inseguiamo sul diritto al lavoro. E Franz Neumann è lì, ecco, diciamo. Dopodiché va in America e la lascia perdere, poi ritorna in Germania e su quel diritto al lavoro tornerà a fare la sua battaglia. Ecco, ci sono anche cose nuove, ecco, dopo Polanyi, insomma, questo, e il turmoil novecentesco certamente le ha messe in campo tutte. Allora, io proverò a dire due parole su quello che mi ha chiesto Giorgio dopo, perché anch'io mi sono messa in fila per parlare, quindi darei subito la parola a Claudio prima e poi a Laura, poi non so se altri vogliono intervenire. Per adesso Claudio e poi Laura. No, io soltanto due cose molto brevi, perché anch'io volevo insistere sulla necessità di specificare meglio, almeno dal punto di vista anche normativo e poi pratico, che cosa intende, politico, cosa intendere per regolazione, perché in alcuni momenti di questa discussione di oggi sembrava che si trattasse di una, come dire, normale regolazione dei mercati. A un certo punto un po' di più di regolazione, però ti volevo appunto chiedere una cosa a Giorgio. A un certo punto lui ha fatto riferimento al fatto che per funzionare i mercati hanno bisogno del sindaco e dei tribunali in qualche modo. Quando lui citava questa frase mi venivano in mente gli ordoliberali, perché c'è una famosa frase di Einaudi quando parlava, citando Röpke, che la pigliava da Röpke, e poi dopo lui però ricordava la fiera del bue a Carrù, e la fiera del bue a Carrù, diciamo, per funzionare ha bisogno dei gendarmi con il loro cappello, della chiesa, di tutta una serie di istituzioni, no? Però probabilmente noi quando pensiamo alla regolazione non pensiamo alla regolazione ordoliberale, che pure era una regolazione costituzionale, perché gli ordoliberali pensavano appunto che i mercati dovessero essere embedded, anche loro usavano questo termine, dentro una costituzione, però una Costituzione per la concorrenza, per garantire quest'ordine, come dire, naturale dei mercati, che però è una forma di regolazione molto diversa. E quindi mi chiedevo, con tutte queste, mi sembra, dialoghi che Polanyi faceva con Ricard, con tutta una serie di persone, se c'era questo, anche con Hayek, se questo dialogo con gli ordoliberali, che pure erano così importanti in quegli anni, c'è stato e come si poneva nei suoi confronti. Appunto, questa è una domanda di curiosità, però proprio anche mossa dal fatto che è necessario, come diceva giustamente Angelo prima e Laura poi, specificare, perché le regolazioni possono essere regolazioni molto banali dei mercati o regolazioni che invece riguardano i confini dei mercati e chi ha potere nei mercati. E a questo E a questo, quindi questa è una domanda, semplicemente è un punto. La seconda cosa che mi sembra importante sottolineare di questa nostra discussione è quanto diceva Giorgio in riferimento anche alla come dire, debolezza della versione neostituzionale americana, no? Dove non soltanto si fa riferimento a regolazioni che si basano su, che hanno a che fare con fallimenti dei mercati, ma che quello che con un termine secondo me assolutamente azzeccato Elizabeth Anderson chiama in un suo ultimo libro i governi privati, cioè addirittura le stesse imprese che sono governi privati, c'è un governo pubblico che è il governo pubblico, ma l'impresa è un governo privato, l'impresa è rapporti di potere, inevitabilmente una gerarchia, e addirittura l'impresa per i neostituzionalisti è diventata sostanzialmente, noi non lo vediamo il potere ha totalmente mascherato l'idea, la presenza di potere, perché che cos'è da così in poi, che cos'è l'impresa? L'impresa è semplicemente un antidoto anche in questo caso a problemi di costi di transazione, e oggi invece di nuovo le catene globali del valore possono rimettere elementi sani, per chi li difende, elementi sani, dico fra virgolette, di mercato, perché grazie alle tecnologie possiamo di nuovo reintrodurre aspetti, diciamo, relazioni contrattuali che prima non potevamo avere perché sono più facili i controlli e così via. E quindi insomma necessità proprio forte secondo me di essere dal punto di vista politico un po' più chiari su cosa intendiamo per regolazione dei mercati. Invece per quanto riguarda la domanda sull'euro, io sarei un non ho alcuna competenza, possiamo parlare a lungo e discutere con Laura di reddito di cittadinanza, ma questo lo lasciamo perdere, e anche con Claudio, quindi abbiamo già parlato in altre occasioni, su euro non ho competenza, però secondo me è vero quello che dice, sono d'accordo con quello che diceva Laura sul fatto è complicato, c'è una pluralità di cause che porta alla situazione attuale, l'Europa c'ha un doppio volto, sono tutto d'accordo con tutto questo. Però dall'altro lato vedo anche nella costruzione europea, e ci sono anche tante documentazioni dell'influenza iniziale di von Hayek fino al progetto dell'euro, vedo anche una corrente di pensiero che ci dice facciamo a meno della politica. Io ho iniziato all'università con una persona assolutamente ultra intelligente che era Franco Romani, liberale, e Franco Romani negli anni Ottanta appunto mi faceva leggere e faceva anche insegnare, insomma, imparare agli studenti tutta una serie di cose sull'Europa, dove la Unione Europea sarebbe stata l'esito del dolce commercio ancora, e quindi avremmo avuto pace grazie all'espansione dei mercati. E allo stesso modo l'euro secondo me è una, come dire, è una costruzione che nasconde la realtà del potere che ci sta dietro, perché avere una moneta senza avere altri poteri di politica fiscale e di politica monetaria, avere una moneta così cosa vuol dire? Vuol dire indebolire il lavoro, vuol dire mettere ancora più mercificazione in quell'ambito del lavoro, perché dove fai gli unici aggiustamenti? Nell'unico livello, nell'unica dimensione dove tu puoi ancora operare. E non a caso noi dal 92 in poi abbiamo visto i dati, è una correlazione, d'accordo, non c'è ancora una cosa di causalità, però abbiamo visto in maniera molto robusta che cosa è capitato ai salari nel nostro paese, e quindi secondo me c'è nascosto lì dietro un rischio, dietro la moneta noi occultiamo un potere che c'è, pensiamo che sia naturale perché questa è la moneta, però di fatto una moneta senza una esplicitazione dei poteri che dovrebbero governare quella moneta e una democratizzazione anche dei poteri che dovrebbero governare quella moneta rischia assolutamente di creare, di indebolire i poteri di qualcun altro e di far vedere come un elemento naturale questo indebolimento degli altri. Con ciò è vero che l'Europa è tante altre cose, però un'Europa che fa questo, un'Europa che permette in maniera legale di non far pagare le imposte alle società, dove un'Europa che c'è i paradisi fiscali come in Olanda, cioè questa è un'Europa che vabbè avrà una grande carta costituzionale, ma mi sembra veramente un'Europa che non può essere giustificata democraticamente, non può. Un'Europa che ti permette con un click di, come si dice, di computer, di spostare la sede legale delle tue compagnie e a seguito di questo, ad esempio, ben 500 imprese tedesche che per la Mitbestimmung avrebbero dovuto, se avessero avuto sede legale in Germania, avere un rappresentante dei lavoratori nel CDA e invece hanno potuto con la sede legale in Olanda non averlo più, e anche lì si è visto alcuni dati che da quando questo non c'è le disuguaglianze nelle retribuzioni sono aumentate. Cioè tutto questo secondo me, come dire, è segno di una situazione nella quale abbiamo usato i mercati, la libera concorrenza dei mercati, la moneta unico per oscurare cambiamenti molto forti nella ripartizione dei poteri. Con ciò è verissimo che non c'è soltanto questo in Europa, quindi è verissimo quello che dicevano Laura e Mariuccia, ed è anche vero che comunque i paesi hanno ancora un po' di autonomia, perché noi a ogni legge di stabilità abbiamo sempre mosso 20-30 miliardi, e 20-30 miliardi possono fare la differenza, quindi per una come me, che invece è molto più, come dire, favorevole a forme di tutela anche del reddito, 7 miliardi, 8 miliardi potevano essere fatti in maniera, diciamo, un reddito minimo poteva essere fatto meglio prima, anziché fare altre manovre. Quindi sicuramente c'è anche ancora possibilità di fare delle cose. Però io vedo, come, insomma, questo sono forse un po' più d'accordo con Giorgio, vedo, come dire, il rischio che dietro queste, come dire, espansioni dei mercati della moneta c'è anche una grossa ristrutturazione dei rapporti di potere, che poi può dar luogo a un doppio movimento. C'era adesso Mariuccia che voleva aggiungere qualcosa. Sì, hai fatto benissimo, perché è in questa scia, nel senso che quello che tu dicevi prima è tanto vero che se si va a fare una storia della Costituzione europea, come appunto ho cercato di fare, è evidente che ovviamente, insomma, no, di Costituzione europea non si parla per decenni, cioè l'Unione europea è un'unione funzionale alla tenuta dei mercati, alla tenuta dell'Unione europea appunto doganale, man mano che si allarga. Questa è la fase iniziale. Man mano però, negli anni 70, nel frattempo però, teniamo presente, c'è comunque abbiamo comunque in comune, a partire dalla Seconda Guerra Mondiale, le quattro libertà rusveltiane e poi la Dichiarazione Universale dei Diritti. Queste cose hanno funzionato, sono perlomeno una carta che viene richiamata e che è servita nei momenti di grande crisi. Ecco. Rispetto al darsi una dichiarazione, una Costituzione con valori, questo è vero, arriva tardi e arriva sicuramente dopo l'ondata dei nuovi entrati nell'Unione Europea, e cioè Spagna, Portogallo, in cui di nuovo, cioè per la prima volta, hai al centro di nuovo il tema della dignità dell'uomo, insomma, e quindi compaiono questi principi, compare anche il lavoro già anche in queste costituzioni, e questa è la cosa che colpisce è la procedura degli anni 90, cioè dopo Maastricht improvvisamente ci si rende conto che appunto non può reggere, ecco, questa unione solo su, appunto, sul mercato comune, e comincia la procedura di Costituzione europea, ma è solo a quel momento lì che comincia, e non a caso la scrittura diciamo è proprio i primi riferimenti compaiono nel testo di Lisbona e da lì si avvia appunto questa procedura. Lo so, però questa cosa è stata l'unico e ultimo anno. Certamente, cioè, tanto è vero, però intanto questa cosa è stata scritta, poi c'è stata la bocciatura ovviamente di Olanda e Francia, che però nel frattempo però il Trattato di Lisbona è stato recuperato e comunque immesso nella dichiarazione. Badate, saranno cose formali, però io non sono poi così convinta che siano solo cose formali. Ecco, io questa cosa, diciamo, questo aspetto, perché insomma di fatto la cultura europea si comunque ha questa distinzione rispetto a quella americana, ecco, insomma, cioè questo elemento di dichiarazione di valori che ci derivano certamente dall'esperienza tragica del fascismo e del nazismo, e adesso insomma, comunque è stata immessa, e noi adesso possiamo politicamente, diciamo, combattere a partire da quella carta lì. Ecco, poi non riusciremo a fare nulla, e sono d'accordo che il mercato poi va da un'altra parte, però insomma no, esattamente, ma insomma il tema della dignità dell'uomo, d'altra parte la dignità dell'uomo sono le quattro libertà rooseveltiane, non è che siano poi così distanti, solo che noi usiamo una carta costituzionale, loro usano appunto le dichiarazioni come è stato fatto appunto con Roosevelt. Ma non credo che sia, cioè questo richiamo io credo che sia importante, ecco, almeno, scusate, usciamo dal meccanismo destra-sinistra anche rispetto al mercato, alla regolazione eccetera, e prendiamo di petto qualche cosa che ha a che fare con valori e con cultura, insomma, no? E questo è, diciamo, il tema dell'identità europea, insomma, la battaglia non può che essere fatta su questo. Poi sulla difficoltà sono d'accordo, però insomma se si va a vedere la lenta costruzione è impressionante, insomma, no? Tra l'altro, voglio dire, l'autore, il redattore, il presidente della Commissione di Lisbona è Giuliano Amato, per dire, questo, che è poi quello che finisce, insomma, questo è... Ci sono altre domande? Dichiariamo chiusa. Io forse volevo dare rapidamente una risposta, che mi avevano fatto. Grazie Laura. Su parte sì. E sul Kelsen non mi risultano, diciamo, prove documentali di una lettura diretta da parte di Polanyi, ma sicuramente direi che era parte dell'humus quale lui aveva studiato. Probabilmente l'aveva letto, ma non mi risultano citazioni dirette nella biografia di Polanyi. Sicuramente gli autori che, scorrendo proprio la sua libreria materialmente, dei libri che aveva sugli scaffali, trovavo più ricorrenti, era sicuramente Max Weber, c'era Schumpeter, c'era Keynes, e cosa che mi aveva molto impressionato all'epoca, c'era nella sua libreria una copia del Mein Kampf annotata e con punti esclamativi, annotazioni critiche, ma era molto divertente da vedere come cosa, nel senso, per capire quanto effettivamente fosse. Sì, ma peraltro appunto la sua formazione giuridica in quegli anni lascia in qualche modo indicare che fosse parte delle sue letture, anche se poi Polanyi non cita sostanzialmente mai giuristi, cita la sua letteratura di riferimento è più sociologica, economica e filosofica. E gli ordoliberali neanche trovo nel suo coté, diciamo, come invece trovo Veblen, per esempio, che viene citato in diverse opere, utilizzato, e peraltro Polanyi era vicino alla cultura marginalista, cioè utilizzava e credeva a quella particolare lettura, in particolare lui ammirava molto, sia pure, diciamo, con un rapporto di conflittuale sicuramente, Mises e Hayek erano sempre i suoi alter ego teorici, ma Karl Menger, perché il suo saggio sulle due accezioni formali e sostanziali di economico era tutto costruito sul passaggio dalla prima alla seconda edizione di Menger, che era stata trasformata e che lui aveva accusato, anzi Lionel Robinson in London School of Economics e poi Hayek, chiamato di London School of Economics, di non avere tradotto, di non avere fatto circolare la seconda edizione, nella quale Menger aveva una ventata sostanzialistica rispetto a quella formalistica, e quindi questo è sicuramente interessante. Totalmente d'accordo con Laura sul tema del lavoro, assolutamente, anche secondo me proprio il capitolo su Spinamland è la dimostrazione che Polanyi fosse attento più al lavoro che al reddito, questo assolutamente non ci piove. Regolazione era usato da me nel senso di governo, non nel senso di regulation, e questo è certo appunto per le cose, e sono molto in sintonia con quanto diceva Elena sul problema europeo, nel senso siamo tutti convinti che quella è l'unica strada e per la quale bisogna lottare, ma il mezzo di lotta probabilmente più solido è quello che non ignora i difetti strutturali e che non li sottopone a critica. E certamente, per esempio, se guardiamo tutto il discorso su diritti e libertà fondamentali nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, che ha costruito prima della Carta il sistema della Costituzione europea, è tutta centrata nella prima fase, fino a che non entra in vigore la Carta dei diritti con il Trattato di Lisbona, sulle quattro libertà fondamentali. E molti giuristi ancora si sbagliano quando vengono a parlare ai convegni delle libertà fondamentali, parlano del diritto alla libertà di espressione. No, le libertà fondamentali sono libertà economiche, libertà di circolazione di merci, capitali, eccetera. E su quello è stato costruito, per esempio, l'idea della competizione regolatoria, quello che diceva Elena giustamente, del problema della possibilità di costituire una società in un luogo e poi andare a esercitare attività economica in un altro per sfruttare le differenze regolatorie, è emblematicamente rappresentato dalla decisione Centros della Corte di Giustizia, in cui una società a responsabilità limitata costituita in Inghilterra con requisiti capitali bassissimi intendeva operare in Germania, dove c'era il requisito di capitale di 20 milioni, come da noi di lire all'epoca, e in questo modo le corti tedesche avevano negato il riconoscimento, dicendo che per la tutela dei creditori, se è una SRL devi poter contare su quei requisiti capitali. La Corte di Giustizia ha detto no, la libertà di circolazione, la libertà di stabilimento e il mutuo riconoscimento implica che tu ti costituisci dove ti pare. Adesso, e poi, caso Paul Bundan. Adesso sono casi più recenti, ma quello è stato il primo. Però questo significa creare un meccanismo di mercato competitivo, fortemente competitivo all'interno dell'Europa, che inizia a essere smussato solo da Schmidberger, Omega. Schmidberger era il caso dei camion che attraversavano il Brennero e erano stati bloccati da una manifestazione fuori dell'ambiente. E lì il problema è diritto alla libertà di manifestazione del pensiero o libertà di movimento. Poi certo, per fortuna, e grazie alle battaglie di Giuliano Amato, Elena Paciotti, Stefano Rodotà e tutti i grandi europeisti, abbiamo introdotto un meccanismo di costituzionalismo in senso stretto, ma certo residuano dei difetti strutturali nella costruzione istituzionale dell'Europa, ai quali se non si mette mano è difficile che il nobile ideale europeista possa di per sé produrre risultati efficaci sul piano dei diritti dei deboli. Perché questo è senza richiamare poi il problema della cittadella Europa rispetto all'immigrazione, ovviamente, che è un altro grande questione. E solo un punto in cui forse credo che sia necessaria una precisazione rispetto a Mariuccia: gli Stati Uniti, l'identità costituzionale è forse ancora più forte dell'Europa, nel senso che l'attaccamento al We the People della Costituzione americana è fortissimo. È il contenuto della dichiarazione costituzionale che diverge fortemente, perché è mancato il peso della spinta della classe operaia, perché rimane una Costituzione incentrata sulle libertà negative, mentre la nostra è la Costituzione delle libertà positive, anche se voglio sperare che la forza che ha mostrato la reazione sociale in Italia nel referendum sulla riforma della Costituzione permanga e sia condivisa anche da altri paesi, perché su questo temo di essere un po' scettico, nel senso che l'attaccamento astratto all'ideale costituzionale non rischi di essere superato dai drammi, delle pulsioni della politica populista di oggi. Questo voglio sperare di sbagliarmi, ma temo che sia un punto sul quale dovremmo trovarci a fare i conti. Però con una nota di ottimismo voglio chiudere ricordando una frase di Hegel che Polanyi citava sempre e che quindi credo che possa ispirare la nostra azione intellettuale e politica. Rompi con la pace in te, rompi con i valori del mondo, lotta, ricerca qualcosa di più che l'oggi e lo ieri. In tal modo non diverrai migliore del tuo tempo, ma esprimerai il tuo tempo nella sua forma più elevata. Questo è stato il suo ideale di vita.